Hai perso la festa del secolo perché avevi sonno. Quando l'Italia ha vinto i mondiali tu eri in bagno. Hai saputo che c'era il Black Friday solo quando è finito. Ma questo non te lo puoi perdere. Il momento è ora. Solo a gennaio Nissan Juke è tuo da 17.900 euro con eco incentivi più eco bonus rottamazione. Sbrigati. Info su nissan.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Della strada. E questo con delle tile a 64x64 pixel, se non sbaglio. Cioè allora c'erano queste dimensioni. Questo per mantenere la risoluzione, questo per mantenere la dimensione al minimo dei dati scaricati. Allora un GP poteva anche occupare un mega. Rocket Balloon, il programma culturale sul fumetto a cura di Peppe Saso e Filippo Messina. By Peppe Saso and Filippo Messina. Disposable heroes going off to war. Carissimi ascoltatori, ben ritrovati finalmente dopo una pausa di più di un mese all'episodio, diciamo l'ultimo prima della pausa. Esatto, e ce la prenderemo ancora di più comoda perché stroncati dal caldo, oltretutto, come tutti. Perché dopo questo appunto episodio, questo sarà l'ultimo prima della pausa estiva, meritata direi anche. Ovviamente pausa, torneremo. Anche perché poi dopo faremo, vabbè, lo vedremo, non posso anticipare, però è quasi passato un anno. Di Rocket Balloon, ovvero il sottoscritto Pesaro, signor mister altro quando. Ciao a tutti, ma questo signor ne faccio volentieri. No, già altrove su YouTube relativo per descrivermi devono sottolineare il fatto che sono un pochino, giusto un pochino più grandetto degli altri. È un signore. In una live recente, per fare capire a Federico Frusciante chi ero, che tra l'altro mi conosce, gli diciamo già, ma quando sai, è un signore lui, e io non sono un signore, io ho 44 bestie. Quindi insomma, poi ovviamente sono sicuro che tra il centro dove sto io e il sud dove stai tu sicuramente farà più caldo al sud, almeno no, ma non mi sono informato oggi su quanti gradi siano, ma credo che sfioriamo i 40. Ah, ok, allora per qualche grado vincete voi. Sarà 38. Sì. E oltretutto pure io, come ti dicevo anche nel pre-trasmissione, c'ho ancora il condizionatore in via, diciamo che non funziona, però in procinto di essere, spero, riparato prossimamente. Non ti invidio per niente, anche se io il climatizzatore manco ce l'ho, penso un po'. Non ce l'ho. Io mi metto le borsa di ghiaccio in testa, uso i ventaglietti, se sentite flat è appunto il mio ventaglio. Perché perdonatemi, ma non se ne può fare a meno. Squadra di caldo. Detto questo, tutto vi ricordo ovviamente che il Rocket Balloon fa parte sempre del network di Runtime Radio, che trovate ovviamente su www.runtimeradio.it o anche nel relativo, nella relativa pagina di Spreaker. E vi ricordo anche che questo programma appunto è realizzato con il supporto tecnico e gli assets di Simone Pizzi. Detto questo, Filippo, vuoi dare sempre i soliti contatti? Tanto poi alla fine non ci contatta nessuno. Tanto non ci contatta nessuno, esatto. Ci snobbate tutto. Noi saremmo disposti a dirvi persino di che colore abbiamo le mutande, ma voi non ce lo chiedete, esatto. Quindi praticamente insomma ci snobbate, ma noi vi abbiamo lo stesso. Innanzitutto ci potete trovare come posta a rocketballoonruntime@gmail.com. Questa è la nostra email per domande, per insulti, per abbordarci, quello che volete voi, fate voi. Per quanto riguarda Facebook, facciamo prova. Eh sì, tanto manca Marco. Prova. Se saremmo aperti? Non sto dicendo che volete. Ah, io andrei a vedere. Con l'aggiunta del PA targa di Palermo, e trovate anche il Twitter di altro quando. Ok, direi allora che mando gli indugi alle ciance e cominciamo subito con l'argomento tra virgolette più vecchio di cui dovevamo parlare e che poi in realtà sei più esperto tu, perché io questa cosa, diciamo, ho visto e letto poco, diciamo così. Prego. Vecchio o antico, forse vecchio perché nel frattempo, perché la nostra trasmissione in fondo è sì, pressoché mensile, magari ci prendiamo a volte qualche giorno in più, però vabbè, quindi il film è uscito e se ne è parlato abbondantemente, ma noi parliamo prevalentemente di fumetti e quindi parleremo anche soprattutto di fumetti. Prova Simone. Riferendo prova Simone. Devo portare perché ce l'avevo il libro. Parliamo di Wonder Woman. Passare prima come data di uscita. Ma non è una cosa. Ma per l'appunto cominciamo parlando non tanto del film di Patty Jenkins. Patty Jenkins, ricordiamoci, è una regista di cui io personalmente avevo un po' perso le tracce, ma un po' di anni fa aveva fatto il bellissimo Monster con Charlize Theron. Un film drammatico molto molto bello che consiglio a tutti e che io ritengo un vero gioiello. Wonder Woman è ha una caratteristica, non è un brutto film, e questo per essere un film che si ascrive al DC Extended Universe, come lo stanno chiamando, dopo Man of Steel e Batman v Superman e anche dopo Suicide Squad, devo dire che in confronto ai tre precedenti risulta un film molto molto carino, un film pieno di imperfezioni, ma ci torneremo. Per prima cosa non bruciamoci gli argomenti subito, ma parliamo della Wonder Woman fumettistica. Diciamo un po' chi è Wonder Woman. Parlando proprio dell'origine, è creata da Charles Moulton, che in realtà però si chiamava William Moulton Marston, nel 1941. La prima supereroina della DC Comics, che all'epoca però si chiamava ancora National, la DC Comics, e comparve per la prima volta su All Star Comics, testata antologica, che presentava varie serie, tra cui Wonder Woman, che esordì lì. Moulton, o Marston, che dir si voglia, figura complessa, fu un teorico del femminismo, era laureato in legge e aveva un dottorato in psicologia, e fu incaricato dalla casa editrice, la DC, che ancora non si chiama DC, di fare una ricerca di marketing sui fumetti che già uscivano e stabilire quali potessero essere nuove direzioni possibili, nuove strade da battere. In mezzo a tanto testosterone con mantelli e calzamaglia, e disse che già qua ci voleva qualcuno forte quanto Superman, ma con le caratteristiche, le attitudini e i pregi di una personalità femminile. Adesso, Moulton, come ho detto, era una figura un pochino strana, oggi diremmo controversa. Si racconta infatti che fosse sposato, che avesse due figli, ma avesse un amante che gli aveva dato altri due figli. Fin qui la cosa non è poi così strana, è abbastanza ordinaria. La cosa ti fa bene a vergognarti, tra l'altro. Però stai tranquilli. Non mi spezzare l'armonia della puntata, ma tanto non riuscirò mai a farla. È tutta colpa tua, io devo dire. Un uomo adulto, quattro cose le ho viste, però io ritengo che da sempre sia stato così. La cosa comunque curiosa di questo signore era che si mormora che fosse riuscito a fare. Allora, ciao, sono Simone, questo è il microfono numero 1, tutto a posto, o tutto regolare, oppure fa tutto schifo, non lo so. Vai Michela. Ciao, sono Michela, io ti avevo detto di registrare da casa. Vai Patrizia. Ciao, sono Patrizia e questa è la mia prima diretta in radio. Ciao a tutti. Basta. Che canzone avete scelto? Attenzione, questa abbiamo è chiesto, il microfono di abbiamo Simone scelto Moito Football Club della banda Bardot. Questa nuova diretta, questo studio improvvisato in ufficio. Poi vai Michela. Non ho capito. Vai. Devo provare? Sì. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Ciao ragazzi, e questa è una puntata Giolli, scritto Giolli di Techno Pills. Come ben sapete, io sono Alex Arcuglia, una sorta di cancro testicolare del mondo del podcasting, e questa è Runtime Radio, che al contrario del sottoscritto cancro testicolare, invece è piuttosto una cosa bella e positiva. Questa è una puntata jolly, come dicevo, perché non ho un argomento solo, ma ho tanti argomenti, perché non ho un argomento principale, ma voglio rispondere a un po' di domande che alcuni miei teleascoltatori mi hanno fatto. In primo luogo vorrei ringraziare Cesare Sassoli, o Sassoli, o Sassoli, ma credo che sia Sassoli, perché mi ha scritto su Facebook Messenger, ovviamente utilizzando lo strumento di comunicazione peggiore che potessi immaginare, ma va bene così, perché voleva commentare la puntata 18 di Tecnopills, dicendo che lui aveva giocato quel famoso gioco di automobili che avevo realizzato. Ed è stato bellissimo, perché credo che sia stata la prima persona che ho conosciuto al di fuori del progetto che aveva giocato al progetto. Non è stato un successo abnorme, cioè un po' sì. E diceva che lui si era divertito ed aveva portato i suoi amici a giocare a questo gioco, che bello. Ed è sempre stato molto curioso di sapere come era stato realizzato, e poi è diventato uno sviluppatore Flash, cioè probabilmente ha imparato a fare le cose anche meglio, anche più belle, però era sempre rimasto curioso ed era stato molto contento di sapere qual era la... come aveva funzionato. E ti ringrazio, ed è stato bellissimo, ripeto, dopo 16-17 anni ricevere un complimento comunque mi ha rallegrato la giornata. A tal proposito, io volevo raccontare una cosa sempre su quel progetto che aveva a che vedere con la partenza. Cioè, come tutti i gran premi, c'era il semaforo che diventava rosso, poi a un certo punto diventava verde. Ma chi è che decideva come diventava verde? Questa è stata una cosa di quelle che non ho mai spiegato in giro, anche perché inizialmente non avevamo la tecnologia, o non ci era venuta in mente di utilizzare questa tecnologia per avere un sistema server che controllasse le gare, ma avevamo essenzialmente la possibilità di far mandare messaggi tra tutti i partecipanti, ma non c'era la possibilità di avere una, un supervisor, un supervisore che comandasse tutto. Questo significava essenzialmente che uno dei partecipanti, essenzialmente il primo che entrava nella chat room, cioè non nella chat room ma sul percorso del Gran Premio, decideva, praticamente veniva chiamato in automatico master, per cui lui era sia un giocatore sia il coordinatore di tutti gli altri. E per la partenza faceva così, in pratica mandava un messaggio a tutti, compreso a se stesso, di quando far partire il semaforo. L'arrivo del verde era abbastanza sincronizzato, abbiamo visto che il ritardo era di un ventesimo di secondo al massimo, il che era molto ma molto ma molto più basso di come il giocatore medio avrebbe poi reagito al semaforo verde. E questa è una cosa che appunto ci consentiva di avere un master che comandava. Grande sforzo, mi ricordo che avevo profuso nella gestione del... E se il master muore, cioè se uno dei giocatori si sconnette, si spegne, cioè quando si pensa a dei giochi multiutente dobbiamo sempre fare i conti con il fatto che la connessione di rete può essere labile o anche le persone possono essere suscettibili, per cui magari a un certo punto se ne vanno. Capita spesso nei giochi multiutente che quando uno sta perdendo magicamente mi si è spenta la console. Vabbè. In questo modo, cioè, nel nostro gioco c'era sempre... Quando l'uomo atterrava sulla luna, i tuoi genitori neanche si conoscevano. Quando cadeva il muro di Berlino, tu guardavi i cartoni. Hai saputo che c'era il Black Friday solo quando è finito. Ma questo non te lo puoi perdere. Il momento è ora. Solo a gennaio Nissan Qashqai è tuo da 25.900 euro con incentivi Nissan e permuta anche senza rotamazione. Sbrigati. Info su nissan.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Quando l'uomo atterrava sulla luna, i tuoi genitori neanche si conoscevano. Quando cadeva il muro di Berlino, tu guardavi i cartoni. Hai saputo che c'era il Black Friday solo quando è finito. Ma questo non te lo puoi perdere. Il momento è ora. Solo a gennaio Nissan Qashqai è tuo da 25.900 euro con incentivi Nissan e permuta anche senza rotamazione. Sbrigati. Info su nissan.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Uno stile live che veniva mandato da tutti i giocatori, e lo stile live era essenzialmente la posizione. E se dopo un certo time out, cioè se non si ricevevano la posizione dei messaggi da qualcuno, si dava per scontato che questo era morto. Nel caso in cui il master morisse, uno dei giocatori rimanenti veniva automaticamente nominato master, e ovviamente l'ordine di chiamata era l'ordine di ingresso nel Gran Premio, per cui il primo che entrava era il master, il secondo era il vice e così via, per cui se moriva il primo il secondo prendeva il controllo, se moriva il secondo il terzo prendeva controllo e così via. E, insomma, è stata una cosa molto molto molto faticosa gestire questa cosa. Come si faceva a contare il numero di giri? Ora che mi viene in mente, in pratica c'era la grafica che era stata sviluppata da un nostro collaboratore che l'aveva disegnata su carta e noi l'avevamo poi colorata a computer, e praticamente c'era la zona verde del prato e la zona grigia della strada. E questo con delle tile a 64x64 pixel, se non sbaglio, cioè allora c'erano queste dimensioni. Questo per mantenere la risoluzione, questo per mantenere la dimensione al minimo dei dati scaricati. Allora un GP poteva anche occupare un mega ed era tantissimo, infatti a un certo punto siamo riusciti ad abbassare questo livello fino ai 300-400k. Immaginate che allora, cioè, il modem erano modem 56k. Per cui il caricamento di un Gran Premio poteva prendere anche 10-15 secondi. Ora un megabyte lo si scarica in un batter di ciglia, ma veramente. E mi ricordo che c'era una mappa, che era quella mappa disegnata, e poi c'era una mappa che non veniva visualizzata dall'utente, ma veniva scrollata insieme all'altra, che praticamente aveva due colori, il nero per le zone in cui non si poteva andare e il bianco nelle zone in cui si poteva andare, e un'altra mappa ancora dove c'era il bianco, le zone di con l'asfalto. In pratica c'era la zona asfaltata, era tutta bianca, il resto era tutto nero, mentre le zone del percorso che potevano essere attraversate in auto ma non erano di asfalto erano un pochettino più larghe. Questo faceva sì che l'utente potesse andare solo nelle zone appunto che gli erano consentite, non poteva uscire dal percorso, e non solo, ma se l'utente non si trovava sull'asfalto ma si trovava sulla zona di prato ai lati, perdeva di aderenza e di conseguenza non riusciva a raggiungere delle ottime velocità e soprattutto sbandava molto di più. E questi settori erano divisi, cioè questa zona bianca e nera era stata divisa in diverse parti, in modo tale che quando l'utente passava sopra una di questa parte, praticamente c'era un po' come il checkpoint dei Gran Premi, per cui c'era anche la valutazione degli intertempi. E come si faceva a fare questo? Ma essenzialmente Director metteva a disposizione un mouse over, cioè non un mouse over, uno sprite over, cioè quando uno sprite intersecava un altro sprite che appunto gli stava scorrendo sotto, allora c'era l'intersezione, per cui si era passato il checkpoint o anche si era passato la linea del traguardo. Ovviamente c'è lo scrolling prevedeva che al centro dello schermo ci fosse sempre la macchina, il Gran Premio era visto dall'alto e il mondo scrollasse, per cui c'è, cioè, diciamo che ogni istante di tempo, circa 30 volte al secondo se non sbaglio l'aggiornamento era quello, si faceva una differenza vettoriale nelle due dimensioni della posizione dello sprite del giocatore e del mondo, e si scrollava tutto il mondo. Dato che le immagini che venivano scrollate non erano tante, erano circa 20-25 di 64x64 pixel, questa cosa funzionava. Vi ricordo che questa cosa girava nei browser nel 2001, 2002, 2000, non so, l'ordine di grandezza era questo. Per cui era molto, insomma, diciamo, la potenza di calcolo era quello che era. Vabbè, diciamo che su questa cosa credo di aver raccontato sin troppo. E ringrazio ancora una volta Cesare, perché è stato veramente bello ripercorrere questa cosa. Poi un giorno magari vi racconto meglio questo gioco, perché va dentro tante belle chicche tecnologiche che ci eravamo inventati per far funzionare questa cosa. Passiamo alla seconda domanda che mi fa Enrico attraverso Twitter. Enrico mi chiede: come mai, perché non rilasci su licenza GPL qualcuno dei tuoi framework, come potrebbe essere Xmessage? Allora, la risposta è molto divertente ed è un attimo, parliamoci. Non perché io sia contro l'open source, assolutamente, ci sono modi e modi di gestirlo. Il problema è che quando si rilascia, cioè si rende un servizio di pubblico dominio, bisogna pensare a due aspetti molto, molto delicati, almeno delicati per quanto mi riguarda. Il primo aspetto è quello della comprensibilità del codice e della sicurezza del codice. Uno può dire: ok, sto facendo questa cosa gratis, l'ho fatta, questa è di dominio pubblico, fatene un po' quello che volete. Sì, invece mi sembra un po' più ricco il fatto di creare qualcosa che possa essere invece effettivamente utilizzato. Se io mi sono scritto questi framework, questi pezzi di codice, questi framework e pezzi di codice essenzialmente li ho fatti io per me stesso, so cosa possono fare, so cosa non possono fare. Diciamo che dovrei aggiungere una quantità assurda di controlli di correttezza per evitare che i programmi si piantassero. Uno potrebbe dire: fallo fare agli altri. Non credo che tanta gente avrebbe voglia di mettersi lì e scrivere la parte più noiosa del codice al posto mio, però vabbè, diciamo che ci può stare. Il secondo punto è la questione della sicurezza. Proprio Xmessage non è un framework che gira soltanto sul device, che cioè sul computer, sul tablet, eccetera eccetera, ma è una parte di un oggetto un po' più grosso, e una parte di questo oggetto gira su un server. Quando c'è una cosa che gira su server, la componente di sicurezza è un po' più delicata. Uno deve sviluppare delle precauzioni che consentono di non caricare dei dati che possono mandare in crash il sistema in maniera non volontaria, nel senso, uno lo fa, capita, succedono degli errori, e due, mettersi al riparo da eventuali malandrini che invece vogliono effettivamente leggere cose che non li riguardano. Questo comporta un certo vero di lavoro che dal mio punto di vista è fuori dalle mie capacità e dalle mie necessità, nel senso, un minimo di controllo di sicurezza c'è, ma è veramente un minimo, cioè una persona, uno veramente bravo riuscirebbe a bucare questo sistema, non dico in 5 minuti, ma in 6 e mezzo. E questa è la parte più delicata, anche perché poi, ripeto, non dico che ci voglio fare dei soldi, non me ne frega niente, non è questo l'ambito in cui voglio fare dei soldi. Oddio, se mi volete ricoprire di denaro, più che volentieri, ma non credo che sia questo l'ambito in cui io posso anche solo sperare di ricavare qualcosa. Diciamo che o questa cosa diventa una sorta di lavoro, allora l'impegno l'impegno diventa paragonato, altrimenti diventa un po' esagerato e non, insomma, diventa più che altro una questione di stress e non di piacere. E non dico che la vita deve essere piacere, però se uno fa le cose così a babbo lo fa anche per provare una sorta di gratificazione e soddisfazione personale. Ci sono altri framework che potrei anche effettivamente mettere a disposizione del mondo, anche se mi rendo conto che la maggior parte di questi ha un suo corrispettivo che magari fa delle cose in maniera più universale. Ripeto, i framework che mi sono sviluppato fanno le cose che vanno bene per me, farle diventare un po' più generali, un po' più universali è un po' più complicato e delicato. Non che non si possa fare, assolutamente, però diventa un grande overhead di lavoro. Io seguo un podcast che si chiama Under the Radar ed è condotto e prodotto da due programmatori che sono Marco Arment, che nonostante il nome è bellamente americano, e David Smith. È un podcast molto bello che consiglio a tutti quelli che vogliono fare gli sviluppatori di applicazioni iOS. Sono due sviluppatori iOS che hanno delle applicazioni di un discreto successo. Poi Marco Arment è quello che ha inventato Instapaper e prima di Instapaper aveva fatto Tumblr, per cui ripeto, non è l'ultimo degli stronzi, anzi. Proprio uno di loro diceva: io un paio di volte ho deciso di mettere a disposizione del mondo le librerie che mi ero sviluppato per me, ed è stato una rottura di palle infinita, ve la dico in maniera un po' più edulcorata, perché quando sviluppi le cose per te sai cosa puoi fare, sai cosa non puoi fare. Se le metti a disposizione di tutti devi prevedere molti più casi e generalizzare un po', e soprattutto andare incontro alle esigenze e alle problematiche ogni singolo sviluppatore che utilizzerà il tuo codice. E per lui era diventata una sorta di lavoro, per cui, cioè, nel senso, passava molto più tempo a cercare di mantenere il codice che per lui andava bene ma che per altri non andava bene, cioè a gratis e per altri, piuttosto che a sviluppare la sua applicazione. Questo era diventato un problema, perché se tu lo fai di mestiere e valuti anche il tuo tempo, è ovvio che non puoi permetterti di sprecarne tanto. Poi ovvio che per la comunità è bello farlo, è anche gratificante per te stesso, però effettivamente se poi devi far quadrare i bilanci e tua moglie ti chiede: oh, perché non hai pagato il mutuo? Capisci che a un certo punto devi anche tagliare delle cose che non sono necessarie o essenziali, o sono un buco nero di tempo e di risorse che non ti puoi permettere di avere. Questo è un po' il mio punto di vista sulla condivisione. Poi ben volentieri sarei anche ben contento di per quanto mi riguarda le mie capacità di sviluppo non sono tali da essere ancora una persona che contribuisce alle comunità, anzi fino adesso io sono stato una sorta di lurker, cioè nel senso guardavo, imparavo, copiavo, e guardando, imparando e copiando imparavo ancora di più. Poi mi sono inventato delle cose che funzionano, probabilmente sì, funzionano per me, però non sono ancora, diciamo, universali. Spero di aver risposto alla domanda, Enrico. Passiamo adesso invece alla terza domanda di oggi, che mi fa invece il mio carissimo amico Roberto Marin, proprio a proposito di Tecnopills. Lui ha sentito la puntata numero 17, credo, dicendo: ah, la qualità dell'audio è migliorata tantissimo. Io e lui siamo in costante contatto, perché oltre ad essere un mio carissimo amico e aver partecipato a più di una puntata di MDB Summer Radio, di cui adesso vi faccio sentire il trailer, MDB Summer Radio, la trasmissione musicale più inusuale del mondo, creata e condotta da Alex Raccuglia, con lo scopo di promuovere la bella musica, brani non troppo mainstream legati da un filo conduttore, un tema per ogni episodio, una storia per ogni puntata. MDB Summer Radio, solo su Runtime Radio, la web radio non solo geek, la web radio di tutti. Fa anche parte di un gruppo di discussione che gestisco insieme ad altre persone, che mi danno una mano a supportare le mie idiosincrasie da depresso, e b allo sviluppo di un software a cui sto lavorando da diversi mesi, e la versione numero 2, la versione numero 1 l'ho sviluppata 2 o 3 anni fa, vabbè, che è appunto un software di pulizia audio. Lui dice: cacchio, l'audio è veramente migliorato con la tua nuova procedura, come cavolo hai fatto? Allora, premetto, io sto sviluppando un programma che si chiama Pod Cleaner, e credo che diventerà pubblico, nel senso, la versione 2.0, la 1.0 la trovate su podcleaner.com, la versione 2.0 sarà disponibile per il pubblico, spero a settembre. Adesso sono in fase di beta testing e sto affinando alcune ultime cose. Pod Cleaner è stato pensato essenzialmente per i podcaster che registrano l'audio e devono pulirlo. E io sono un podcaster, registravo l'audio e ho sempre, mi sono sempre sbattuto tantissimo sulla pulizia, perché mi piace avere le cose più pulite possibile, nel senso più fatte bene, ecco. ma non perché sono un puntiglioso, un perfezionista, tutt'altro, sono un approssimativo. Più che altro perché mi dà molto fastidio quando l'audio dei podcast si sente male, e a volte arriva a livelli tali per cui non riesco più ad ascoltare la puntata e rinuncio ai contenuti perché il contenitore è troppo faticoso. Allora diciamo che mi sono messo nella posizione: ma come posso fare dei podcast più buoni ad alla gente che non ha voglia di sbattersi come me per l'audio? Perché l'audio è una cosa molto complessa. Se lo sai, lo affronti, lo pulisci, lo gestisci. Se non lo sai, è un po' come sbattere la testa contro un muro. E mi sono anche visto nel come io pulivo l'audio prima di sviluppare questo programma e che cosa facevo. Molto spesso guardavo le waveform, le linee d'onda dell'audio, e andavo a beccare i momenti in cui l'audio si abbassava e lo tagliavo del tutto, in modo da evitare il rumore di fondo. E lo stesso dicasi per la sincronizzazione. I podcast che realizziamo in Runtime Radio, ma anche precedentemente con il network Justin Tech, che era gestito da Justin Rosati, e anche lui fa parte del mio gruppo di discussione di Podcleaner, gruppo privato. Oddio, se volete partecipare, parliamone. E, diciamo che appunto sincronizzavamo l'audio a occhio, andavamo a vedere le tracce quando come erano messe e si cercava di sistemarle. Allora mi sono sviluppato un paio di script, originariamente erano proprio degli script, che consentissero di fare queste cose in modo da emulare il mio comportamento di essere umano da un computer. Queste cose si sono raffinate moltissimo. Adesso Podcleaner è uno strumento che secondo me è molto, molto efficiente, che io uso su tutti i podcast che realizzo e anche su altri podcast. E l'ho anche venduto in più di uno. Insomma, l'ho venduto, non ci sono diventato ricco, sono probabilmente andato in pari con le spese, non con il tempo impiegato. Però diciamo che è una di quelle cose che mi rende contento. Andate a fare un salto sul sito per vedere di cosa si tratta. Podcleaner è pensato, non è pensato per essere il Photoshop dell'audio, ma è pensato per essere l'Instagram. Cioè non è un prodotto che costa tanto, costa qualche dollaro, che però consente di togliere il 99% dello sbattimento da parte di chi fa podcast e non ha voglia di imparare anche a pulire l'audio, vuole essenzialmente registrare senza rompersi le palle. Podcleaner funziona abbastanza bene, cerca di capire qual è il rumore di fondo, lo fa cercando di capire dove la persona sta zitta e però c'è ancora un po' di rumore, per cui identifica quello come rumore di fondo e fa una discreta pulizia, ma non è perfetto, però funziona. Le prime 15 puntate di questo podcast le avete ascoltate fatte con Podcleaner e andava più che bene, secondo me. Cioè funzionava abbastanza bene, aveva i suoi limiti eccetera eccetera, però diciamo che per una cosa a sbattimento zero ci poteva anche stare. Ho scoperto però un software molto costoso, che però mi serve per lavoro, che si chiama iZotope RX6. RX6 è una suite di, cioè un programma che contiene all'interno una suite di strumenti per la pulizia dell'audio, pensati essenzialmente per le interviste e anche le interviste video. E c'è un modulo di questo programma che si chiama Dialogue Isolator, se non sbaglio, che è pensato proprio per prendere il file audio. Quando l'uomo atterrava sulla Luna, i tuoi genitori neanche si conoscevano. Quando cadeva il muro di Berlino, tu guardavi i cartoni. Hai saputo che c'era il Black Friday solo quando è finito. Ma questo non te lo puoi perdere. Il momento è ora. Solo a gennaio, Nissan Qashqai è tuo da 25.900 euro con incentivi Nissan e permuta anche senza rotamazione. Sbrigati. Info su nissan.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Con strumenti di machine learning, di intelligenza artificiale, capire che cos'è parlato e capire cos'è il rumore di fondo e effettuare una separazione. Una separazione che ha un livello molto ma molto più potente, più efficace rispetto a quella che potrebbe dare sia Podcleaner ma che Audition. Io uso essenzialmente Adobe Audition per la registrazione su desktop e per la pulizia dell'audio, non tragico come quello che può essere questo che... 10 in runtime, Simone Pizzi qui in linea con voi, in diretta anche questa sera, soprattutto questa sera, perché come al solito noi le domeniche sera siamo al mare o a ubriacarci da qualche parte, ma questa sera siamo tornati con Everything, la trasmissione che non c'è stata tutto l'anno, ma improvvisamente ne escono due puntate di fila, tanto per, e con me chiaramente Michele De Paola. Ciao a tutti, bentornati. C'è la gioia in Michele De Paola che quando non fa podcast o trasmissioni per secoli interi e poi improvvisamente dice ma mi piace, voglio rifare, e allora tutti ritorniamo qui, quindi ringraziamo sempre quelli che ci stanno ascoltando, quelli che sono in chat, che per ora sono pochi, cioè praticamente noi a parte Carmine, e vi ricordo Carmine, quindi. Salutiamo Carmine, ciao bella Carmine. Carmine, che ti abbiamo praticamente costretto, che noi vieni a ascoltare almeno tu, insomma. Però quelle poche persone, poi qualcuno arriverà durante la trasmissione, si spera, ma insomma, ricordatevi la nostra pagina Facebook Runtime, Runtime Radio, naturalmente, e Everything, che è la trasmissione che appunto abbiamo ideato con Michela, cercate, fate mi piace, eppure Runtime Music, che sono il nostro gruppo di Runtime, che sono ben pochi. Questa sera ci sono tanti ospiti, Carucci, ospiti, Michela. Sì. Così abbiamo deciso di fare una cosa un po' allargata, sì, tipo le famiglie allargate. Abbiamo nuovi adepti che presto potrebbero prendere strade. Non dirlo perché poi basta con sta cosa che noi diamo alla gente, la fondamentalmente. Accalavamo tutti. Non si può fare assolutamente, però. Vabbè, io direi partiamo con la sostanza, cioè nel senso, ascoltiamoci subito un po' un brano e poi presentiamo un po' tutta quanta la questione. Va bene, allora ascoltiamo la banda Bardot e ascoltiamoci questa folle partita tra bevitori di mojito contro fumatori di marijuana. Che voi sapete che chiaramente la playlist è by Michela, quindi insomma sapete già cosa aspettarvi, no? Quindi Mojito Football Club. Va bene, ascoltiamocela. C'erano state danze in riva al lago per brindare al sudore. C'era stato un profumo di menta, di ghiaccio e di liquore, di liquore. E poi Miriam delinquente non si serve da bere all'accento. Alchimie di sorrisi dritti al cuore e alla mente. Poi maglioni per terra e partite di pallone. Una sfida essenziale senza regole e religione. Tra noi, bevitori di mojito e i fumatori di marijuana. Una squadra troppo vanitosa, troppo brasiliana. E quella notte fu mojito football club. Una fine o una scusa per finire in abbraccio, con le mani unite sotto una cascata di menta e di ghiaccio. E Miriam delinquente non si serve da bere alla gente, alchimie di sorrisi dritti al cuore e alla mente. E quella notte fu quella notte. da, dal grande sapore estivo con le playlist di Michela. Io non posso fare, fallo tu, caro ospite. Brava Michela. Uno degli ospiti è qui. Allora, dicevamo, puntata dal sapore estivo, dove per quello ho scelto la canzone Mojito Football Club, che esatto, davo tutti quanti a avere un bel mojito sulla spiaggia. Ma perché soprattutto puntare dal sapore estivo? Perché essendo questa trasmissione dove noi raccontiamo i cavoli nostri. No, ci sono i bambini. Ci sono bambini, è vero. Si fa questa cosa. Cominciamo a presentarli, insomma, questi ospiti. Sì, presentiamoli. Allora, prima di tutto presentiamo la mia storica amica Patrizia. Oh, ciao a tutti e buonasera. Addirittura storica. Storica da ben 3 mesi, attenzione. No, da ben, forse più di 10 anni. E sei stufata? Ci siamo un po' perse, poi ci siamo ritrovate e poi l'abbiamo inglobata. Quello è sempre un errore. Vieni a fare la radio anche tu. Poi vabbè, lo conoscete bene perché purtroppo fa parte della Time Radio da una vita. C'è anche Marco Gualdi. Brava, bella canzone. Le altre saranno all'altezza, che può dire? Ovviamente. Mamma mia. E poi abbiamo anche Marco Ciccariello. Buonasera, noi. Marco. Buonasera, ciao a tutti. E ben ritrovati. Vedo che insomma si sta pian piano popolando questa chat. Ma Michela, insomma, cominciamo con la sostanza. Allora, dove di solito si raccontano i l'attualità, sì. Prima di arrivare all'argomento tanti gli argomenti, che non è c'è un argomento. Sì, agli argomenti, però l'argomento blu della serata, che è quello che ha scelto Patrizia, io volevo dare una nota di attualità, cioè dire che in questi giorni Roma è praticamente invasa da tutti le cavallette. Magari no. Magari perché sei magnato. Sorci ci stanno, beh, quello dai piccioni che ho. Sorci. O dai sorcini, no, per carità. E dai fan. Beh, però è un concerto, Renato Zero, Vasco Rossi, ragazzi, penso. Mamma mia, deve essere spettacolo. Quante fanno allo stadio? 10. No. Così un numero così. Secondo lei quanta gente ci va a vedere? 20. Ok, secondo te Patrizia quanti? Sì, se non 20 forse 30, ma se lui ha fatto 450.000, se li metti insieme i 220.000. E poi secondo me può succedere tutto, Vabbè, no. Come sappiamo bene che la bravura dei cantanti è assolutamente proporzionale al numero di persone che vanno a vederli, quindi Vasco Rossi è il miglior cantante del mondo, dell'universo conosciuto. Allora no, vabbè, il miglior cantante dell'universo come? Del mondo, non credo proprio, però i fratelli Vanzini sono i migliori registi italiani viventi al mondo, universali proprio. I fratelli Vanzini. Vanzini. Perché sono due. Qualche fan di Vasco Rossi potrebbe risentirsi di questi. Tipo che ne so. Marco, no. Tipo che ne so, c'è un certo Michele Schuren in chat che assolutamente dice. Dove? No, vediamo. No, c'è. Ma non si vede. Guarda, eccolo qua. Carmine Puccio Consoli. No, quello sopra. Ciao Michele Schuren, detto Michele. Ciao Simone, gracchi da morire. Mi sa che hai il microfono. Lo so, infatti, ma non so come risolvere questo problema, cari amici. Ecco, adesso lo abbasso. Simone, pure Carmine ci diceva. Dicendo. Ok, vabbè, ragazzi. Allora, guarda, io intanto fatemi partirei. Sapere se adesso mi sentite o se è ancora gracchia. Partirei con raccontarvi questa storia di un album che praticamente c'ha 30 anni, che ci ha accompagnato per tutta la vita e che è ritornato. A me ne avanzano 1. A me ne avanzano solo 7, quindi è tutta la vita. E che. Non ho contato, 10. Sempre 10. 7. Sempre 10, il numero perfetto da questa serata. E che è arrivato sul bordo di un aereo, cioè di un aereo proprio con la scritta gigante di Joshua Tree. E ci ha praticamente catturati tutti, perché gli U2 di nuovo sono tornati a Roma e hanno fatto milioni e milioni di. Ne erano almeno 10. Olimpico, sono sparse per sembrare molte di più. Esatto. Vai, fatemi sapere se gracchi ancora. Comunque vai. Quindi sono venuti gli U2. Sono venuti gli U2. L'Olimpico con 10 persone. 10-15 persone. Ma c'era bella perché è tutto olimpico pieno. Dai tempi bellissimo. Dello scudetto della Roma che non vedevo queste cose, insomma. Sì. Ma loro ogni 10 anni appunto tornano e riempiono lo stadio olimpico. Sempre con lo stesso disco. che Ten. No, allora c'è da dire una cosa, che loro ci hanno provato. Loro ci hanno provato. L'albero di Joshua. Beh, bel tiro. Ma è un albero famoso in Orlando. In Orlando? Sì, in America. Perché esiste veramente questo Joshua Tree? Non so, perché c'è una storia particolare che non mi ricordo, adesso non ho studiato. Cioè, ma io se lo fa una trasmissione in queste condizioni, cioè senza un minimo di preparazione, improvvisazione, come siamo approssimativi, anche la forza di alzare il ditino e andare a vedere su Google. Poi mi ricordo, mi ricordo quel famoso utente che ascolta Morti di Bestemmie, dice che noi diciamo sempre banalità e luoghi comuni. Un sacco di banalità, luoghi comuni su un sacco di casi. Su The Joshua Tree. Non dire parolacce. Vabbè, io comunque volevo dire una cosa. Che ci sono stati gli U2, hanno fatto Joshua Tree, l'hanno masterizzato. Grazie al cielo che hanno fatto The Joshua Tree, perché l'ultima volta che hanno fatto un album originale, circa un paio d'anni fa, adesso la mettiamo la canzone, hanno regalato le canzoni più belle che hanno regalato. No, la più bella è quella che hanno regalato su... Hanno regalato il l'album sull'Apple Store, su iTunes, e la gente si è incazzata come una bestia. Scusate le parolacce, non le devo dire, menatemi ogni volta che le dico. Si è arrabbiata, brava, si è arrabbiata tantissimo, perché ha detto: noi questo album non lo vogliamo, fa veramente piangere, neanche gratis. E quindi la mia casa. E quindi loro che hanno fatto? Che hanno fatto? Hanno detto: riprendiamo The Joshua Tree, che comunque è il nostro album storico, e riproponiamolo, portiamolo in giro. Patrizia, tu che ci vuoi dire su The Joshua Tree? Joshua Tree è un albero, sappiamo che è famoso, non sappiamo per quale motivo è famoso, però a parte ma perché si chiama Joshua? Perché Joshua, perché è Joshua, è Joshua. È il suono che lo rende famoso, è un suono, che ci piace. Ma Joshua Tree comunque all'interno delle canzoni storiche meravigliose, una in particolare, la tua preferita? E io direi The Running Stand Still, è anche per me veramente meravigliosa. Sì ma diciamo anche però la verità, che questa operazione, che sembra un'operazione di revival per far così, insomma, rivalutare un'opera che già era famosa all'epoca, in realtà la rimasterizzazione serve per riattivare i diritti d'autore. Ma io non credo. Non credo perché non so, sono passati 30 anni. Però si alzano due spicci. Ricordatevi che i diritti di riproduzione durano 50 anni, i diritti d'autore durano 70 anni. Secondo me più semplice, in modo più semplice, a parte gli spicci che non gli siamo mai mancati agli U2. Ma così. Così, giusto, anche a me, perché in realtà sembra che fanno la stessa canzone da 30 anni. In realtà no, non c'è parole, comunque sono tutte uguali, e soprattutto le ripropongono a distanza di 30 anni per fare lo speech. Vabbè, ma chi è che non lo farebbe? Guardi, lo farebbe? Io lo farebbe. Comunque, secondo, ribadisce i suoi cavalli di battaglia a 30 anni. Secondo la mia modesta opinione, Bono, Vox e Company hanno deciso di riproporre un album come quello così importante e di chiudere praticamente la loro carriera. Secondo me, vabbè, però Bono è abbastanza paravento. Stanno a chiudere. Sì. Anche perché non c'hanno più niente da dirci. Perché cioè, è vero. Ma da noi c'hanno più niente da dirci. Conosco cantanti italiani che sono a 30 anni che non c'hanno niente. Non facciamo nomi, ma sono colori. Diciamo solo colori, dai. Rossi. Non solo. Vabbè, io a questo punto mettiamo una canzone che non sono gli U2, perché abbiamo già messo. Non lo so, che c'è sta. Stavo per rimettere la banda a Bartolo, sbaglio. Li abbiamo già messi la volta scorsa, quindi non li possiamo rimettere, purtroppo. E io ho pensato che magari non essere troppo monodenamo. Di movimentare un po' la cosa con una canzone che viene dalla colonna sonora di Big Little Lies, una serie televisiva che consiglio a tutti, bellissima, bella, con Nicole Kidman e con altre attrici che non mi ricordo il nome in questo momento, comunque molto bella. E ascoltiamo Queen of Bornes di Skinny e Geisler. Kinney. Non ce leggo al contrario, ma hai tolto tutto. Avresti potuto dire Kinney. Fratello Federico che ci sta ascoltando, e un mega bacione a Nicco che è mio nipote e anche lui ci sta ascoltando. Ma quindi di che parliamo? Adesso noi entriamo nel clou della puntata, perché abbiamo invitato qua, costretto i nostri amici a venire qui a parlare, e abbiamo detto trovate un argomento che vi interessa, e quindi Patrizia di no, che spiegamola bene questa sì. cosa. Noi diciamo sempre, ah, la radio, loro ogni tanto facevano delle piccole sortite, ci sentivano, quella. Poi diciamo, ma mi piace stare alla radio, ci piace, è bellissima. Ma fatela, venite anche voi a fare radio, perché abbiamo proposto addirittura un contratto, no? Milionario. Sì. Abbiamo detto un contratto. Ma sti milioni che ce li dà? Ci danno loro i milioni. Certo, ci danno dei soldi a noi. Brava, bravo. E volevamo fare una televisione che si chiama Sputa il Rospo. È vero. Sì, che era facile, però non hanno accettato perché sono ancora lì indecisi, non sanno, però ma perché tanto... gente che lo sputa, cioè, così capito, però tutti... ma non è detto, non è detto, non è detto che non abbiano accettato. Quindi questa prima sortita di Patrizia, che viene a raccontarci un po' anche di se stessa, perché voi dovete sapere una cosa. Purtroppo mi sono scordato di premere, cioè di mettere lei, perché dovevo premere un pulsante, perché lei partiva una sigla, che anzi più che una sigla, diciamo così, un inno, perché è un inno importante, ma poi ci avrebbero detto che eravamo troppo dalla parte, allora non l'abbiamo fatto, e quindi prego Patrizia. Allora, sembra che tu stia parlando da Frosinone, però Simone, ci dicono. Non da Frosinone. Dai. Sì. Prima era sbragato, adesso da Frosinone. Ragazzi, io non so che cosa succede a questo mixer. Se purtroppo mi sentite male è colpa di mia moglie. Chiaro. Così. I mezzi messi a disposizione a runtime dipendono tutti dal braccetto di mia moglie. pure dalla troppa energia che c'è nell'aria, vorrei dire. Però questo argomento dell'energia per questa serata non lo tocchiamo minimamente, lo sfioriamo così, la sfioriamo semplicemente. Sì. Però volevo ritornare sullo Sputer Rospo. In realtà sì, era partita l'iniziativa come quella di parlare appunto di rospi, di sputarli questi rospi, però prima forse era il caso di prendere confidenza un po', un approccio, un primo approccio, e poi dopo magari partire. Grazie al signore, come si chiama, Federico Betti. Sì, Federico. Faccio i complimenti, guarda, perché lei ha partorito una sorella. Ma Federico, infatti sta tipo, Federico è il fratello. Sì. Non so i fratelli che partoriscono. Non direi proprio. Comunque, dai, il gene è quello. Però ha partorito un atleta, una pseudo atleta, insomma, quello sì. Perché gli ha fatto, dai. Forse le bastonate. No, perché se hanno scoperto la dote di riuscire a fuggire. Cioè, vedi quanto cuore mortacci. Per forza. Vabbè, comunque, mica la riprendi. Le redini, ma stava andando benissimo da sola. Io la volevo far andare a ruota libera. Introduciamoci su quest'arte particolare che Patrizia ti contraddistingue. Una cosa che noi difficilmente riusciamo ad approcciare, però magari non è detto che un giorno. Infatti non è detto. Forse in un'altra vita. L'arte di correre. Raccontaci un po' di questa passione che ti contraddistingue. Sì. Ogni tanto noi ti vediamo girare qua. Sì, adesso sono lontana dal circuito delle competizioni, delle gare, però mi è rimasto questo sgambettare di tanto in tanto, insomma, qua e là sulla ciclabile e in giro per Monterotondo. Infatti penso che alcune persone diranno: questa è pazza. Perché i podisti e comunque i runner, secondo me, un po' dall'esterno vengono visti come persone un po' strane, però eppure gli dico, le persone che ti vedono per strada dicono: questa è pazza. C'hanno quasi ragione. Lo dicono per un motivo insensato, giusto, pur nonostante ciò c'hanno ragione. Tutto sommato un filo di follia c'è in ognuno di noi, insomma. Brava. Magari in qualcun altro un po' di più. Il brutto è che te lo dicono quando stai andando a fare la spesa. Non è quando stai a correre. Questa è matta, è così. Comunque, il demone della corsa può colpire chiunque, in realtà. Perché se pensate che io ho iniziato a correre dopo aver deciso di smettere di fumare. Quindi mi sono detta che dovevo comunque compensare questa con qualcos'altro, quantomeno comunque un po' trovare... la Corri Forest, sì, un pochettino sì. Ho compensato per non smettere di fumare con gli hamburger fritti. Tu prendi un panino con doppio cheeseburger e bacon, lo metti nella friggitrice e te lo mangi e poi corri. Beh, lì c'è un sacco di energia, lì si corre poi, forte poi sempre, tante volte infatti le serate finiscono improvvisamente anche sì. Ho capito come può finire una serata. Comunque, dicevo, fino a quando poi mio fratello, una volta così per gioco, mi ha detto: ma perché non ti tesseri con la SS Lazio? Ma perché? Interessante. Qui abbiamo diversi aquilotti, insomma, in studio, quindi loro si sentiranno in qualche modo partecipi di questa adesione. E niente, alla fine, così un po' per gioco, ho deciso di... E poi una parentesi, scusa, la S Lazio è meritevole, anche se io non sono tifosa della Lazio, devo dare il merito a questa, diciamo così, polisportiva, perché veramente raccoglie tantissime discipline. Allora, è vero. Intanto iniziamo a dire che è la polisportiva più grande d'Europa. Sì. Questa è una cosa importante. bisogna dirlo, soprattutto e c'è Patrizia dentro, questo sì, la rende insomma un po' più Devo fare una correzione, c'ero dentro, adesso non sono più tesserata perché sono questa, un po' questa è una grossa delusione, quindi questa magacci per adesso, favore. Vabbè, ma col cuore sta col sempre cuore là. Sono sempre lì, sì sicuramente, perché Patrizia in realtà dalla Polisportiva Lazio l'hanno portata a Milan e come è andata all'aeroporto a Milano gli hanno detto grande Patrizia, lei ha detto forza Lazio. C'è stato un prego cuo. Questo faccio riferimento a quello che è successo oggi con Biglia, che ai tifosi del Milan gli ha detto forza Lazio e tutti sono un po' tipo un attimo incazzati, però vabbè, poi sono cose che succedono, a te pure succedevano cose sì sì sicuramente, certo. Guarda, erano all'ordine del giorno proprio. Quindi veniamo al dunque, questa corsa, allora, da che vogliamo partire? Prima di tutto da come si svolge la come vita corre, di un maratoneta? Ah, di un maratoneta, degli allenamenti ancora più intensi e lunghi. Tra l'altro, tu sei una velocista o sei una fondista? Io ho fatto sempre mezzo fondo, quindi le mie gare erano di 10 chilometri. Ah, sì, okay, sì, 10 chilometri. Tipo Panetta, in pratica. Per cui ma forse Panetta faceva 3.000 siepi, forse, non mi ricordo, però vai. Vabbè, questo sorvoliamo, sì, infatti, valla a sapere. Ma diciamo che l'impegno, la costanza e la disciplina sono le qualità che comunque contraddistingue un corridore, insomma, e un po' secondo me l'atleta in generale. E soprattutto quando fai delle competizioni a livello sportivo, comunque devi attenerti a degli schemi, a degli allenamenti insomma piuttosto impegnativi. E la cosa che mi ha sorpreso è che diciamo, partendo come gioco, quella di tesserarmi e di fare delle gare, poi è diventata una vera e propria passione, insomma. E devo ringraziare insomma mio fratello per avermi trasmesso questa e avermi proprio tuo fratello della Lazio? Sì, mio fratello è razzialissimo. Bravo fratello. E la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto e per la quale ho un ricordo particolare è proprio la prima gara che ho fatto con mio fratello, che mi dava insomma il ritmo, perché poi tenere un certo ritmo in gara è la cosa più difficile, soprattutto all'inizio, quando si è così diciamo presi dalla competizione, che si tende a partire a cannone e quindi a non risparmiare energie poi per lo sprint finale. Guarda, più difficile di questo secondo me c'è lo stare in radio e non sbattere sul tavolo, quello è, penso che sia una cosa proprio... ribadisco i concetti vabbè. Si sottolineo. Comunque sì, questa gara la ricordo con grande simpatia, anche perché c'era un aneddoto insomma simpatico. Ogni tanto, a distanza di un paio di chilometri, mio fratello mi chiedeva qual era il mio stato di affaticamento. Allora mi diceva: da 1 a 10 dimmi quanto sei stanca. E allora faceva proprio da trainer. Sì, esatto. No, e io dicevo no guarda, ce la posso fare, possiamo tirare un altro po', e quindi lui poi magari cambiava il ritmo e andava su un ritmo un po' più sostenuto, anche perché poi sono un po' rinomata per essere un po' il mulo in certe situazioni, nel senso che è ho sempre difficoltà. Bello essere finiti muli è fantastico, no, però il mulo ogni un tanto un po' di goccio, come si dice a Roma, il mulo da soddisfazione c'è il suo perché. Sì, ma in realtà dovrebbe ogni tanto ammettere insomma la fatica e lasciare insomma, il passo. E lasciare il passo, sì, magari insomma. Tu Marco, però... guardi, sei un po' mulo. Come no? Io infatti dico, mamma, basta. Come fa il mulo? Mu. Bravo, bravo, così io ti volevo proprio qui, insomma, questo momento importante di Alta Radio. Prego, scusa. E quindi, diciamo... davo sempre come riferimento un numero che era tipo 6 massimo, quando in realtà ero abbastanza in affaticamento, era tipo 9, abbastanza paonazza, era tipo 9, sì, molto più vicino a 9, però nonostante questa convinzione che mi ero, diciamo, che avevo dato a me stessa di non soffrire, sono riuscita comunque a fare il mio personal best nella prima gara, quindi... sono riuscita insomma anche a fare lo sprint finale, a fare spiegalo un tempo. Cos'è il personal best? Vai, spiegalo. Il pensavo lo volessi spiegare te. Il personal best era praticamente un tempo migliore a quello che diciamo si prefigge durante una gara. Nel senso, cioè, nel senso, io sta gara la finisco in un'ora, invece tu hai finito a 58 minuti. Esatto. Okay. E quindi, insomma, quindi c'è gioia infinita. Sì, gioia infinita e molta, molta soddisfazione. Tant'è vero che poi da quella gara hanno cominciato a farne altre. Altre molto più sofferte, dove veramente invece la fatica era 10, andavo al traguardo con la testa ciondolante di Simone Marco che mi filmava e riprendeva. È giusto, sono momenti da ricordare. E lui mi cicchettava anche le volte in cui secondo lui avrei potuto dare di più, e questo è veramente fantastico, perché giusto. Io faticavo nella speranza di... Di morire. Ma non ci sei riuscito, potevi dare di più, potevi anche morire. Forse era quello lo scopo del suo incitamento. Chi lo sa? L'incitamento è perché anche di fronte al raggiungimento delle proprie risorse, però a un certo punto dici: no, tu devi, puoi. È sempre da stimolo, no? Cioè, sicuramente ogni cosa è da stimolo. È come il mixer che non funziona, e noi potremmo comprarne un altro, ma d'altronde già ce n'è uno. Che però non è qui, avremmo dovuto andarlo a prendere. Poi, allora. Ma io direi facciamo così, dato che l'argomento è veramente interessantissimo proprio. Sicuramente e anche sostanzioso. Ci fermiamo. Dobbiamo continuare. Continueremo poi, magari sei contento? Sono ci avviciniamo sempre di più all'argomento fatti nostri, quindi giusto, tranquilli giusto, che poi i nostri ascoltatori. Il prossimo brano farà impazzire tutti gli appassionati di heavy metal, insomma, della costa occidentale. E finalmente c'è il growl in questa trasmissione. Esatto. E andiamo ad annunciare. Michele annuncia questa band growl metal, death metal. Mi sembra. Un po' death, dark, un po', cioè un'anima un po', diciamo così, un'anima soul. Ce l'ha Vinicio Capostella. Chi? Vinicio Capostella. Ascoltiamo però una canzone cantata da lui, che però originariamente in realtà è di Adriano Celentano. Però è riuscita meglio a Vinicio Capostella che a Adriano Celentano. Bravo. Ascoltiamo. Non abbiamo dubbi comunque. Si è spento il sole. Spento il sole nel mio cuore, perché non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Forse l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Da qualcun altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Il sole, chi l'ha spento sei tu. Ma quando un altro dal mio cuore ti può innamorare, non ne voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Io cercherò. Amare un'altra non potrò. eccoci qua, scusate, ma insomma abbiamo avuto un ritardo dovuto da noi stessi, cioè nel senso che siamo un po' ritardati e quindi la canzone di Capossela era finita, ma noi ritorniamo allegramente per riprendere quelli che sono gli argomenti di questa fantastica puntata. Per esempio, salutiamo Giuse che si sta addormentando al ritmo della nostra puntata. Sì, e della nostra voce soprattutto, perché la stiamo praticamente ipnotizzando, il che potrebbe essere un male. Assolutamente, perché poi c'è l'ipnosi regressiva e quindi so cazzi, poi potrebbe ricordarsi di quando era bambina e faceva altro che piangere e fare la cacca. Secondo me, guarda, ti devo dire la verità, fra 10 anni, quanti anni c'ha adesso? È 2, quest'anno dico che no, allora 10 anni, fra 15 anni, quando tirerai i piatti contro i genitori, e i loro genitori diranno, ma perché, cosa gli abbiamo fatto? Vi ricordate, mi facevate sentire quella radio di merda, e tirerai i piatti. Quindi, tra l'altro la salutiamo e le diciamo di avere pazienza ancora un po', perché presto saremo tutti insieme per un fantastico viaggio. E questo non è mai una cosa bella, però vabbè. Bene, bene, bene. Allora, Vicio Capossela, avete sentito insomma musica hard rock che fa sempre insomma bene nella nostra trasmissione, e adesso si parla di cose un po' più spintose, insomma, no, spintose no, prima era spintose perché si correva, quindi era più spintoso di quello. Si parla sempre di corsa. Però ancora. Roba di come di posso. Ah, si è sempre di corsa. Sì, allora, niente, nella prossima. No, no, ho capito, vabbè, insomma, io pensavo non che vogliamo monopolizzare la non, no. La diretta. Si parla sempre di corsa. Parlare di cose più interessanti. Tipo, dai, tipo, la pure del. No, no. Bambini, mannaggia. Vabbè, ma no, la fresca insalatina, allora la fresca insalatina che invece stanno dormendo. Qui addirittura non solo si continua a parlare di corsa, ma addirittura di libri, ragazzi, è una cosa. Sì, di libri sulla corsa. Saremo brevi, così, brevi, così, brevi, così. Brevi perché dopo c'è un brano, ragazzi. Di che cosa può parlare un libro sulla corsa? Di che cosa può parlare un libro? Un microfono solo, ma. Sì, infatti grido per quello. Di che cosa può parlare? No, vabbè, io volevo intanto parlare di uno scrittore che è Haruki Murakami, che ha scritto oltre il libro che sto per narrarvi, ha scritto un libro che è diventato famosissimo negli ultimi 10 anni, Q84. Come? Il Q84. Sì. Il Q. E Q. Allora è Q. Uno Q, una cosa del genere. Comunque, veramente c'è un libro al di fuori di ogni umana comprensione. Perché è scritto in giapponese. Ma perché? Cioè, parliamo di una cosa che non sappiamo neanche come il titolo, cioè una cosa inquietante. È in Q, vabbè, il libro è in Q. E poi avevo individuato, prima di sapere insomma i riferimenti letterari, ci dice Carmine che c'è un libro sulla corsa molto bello di Aldo Giovanni e Giacomo, che magari potremmo recuperare. E sì, Carmine corre, quindi lui è maratoneta. Carmine, tu corri? Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo. Ah, sì, sì. Sì, corre, come no? Lo sapevo. Carmine non credo che corra, comunque non mi sembra. Magari un giorno tutti iniziano un po' per giorno caso, correrà dietro la figlia, perché crescerà anche lei. Io nella mia vita ho corso tanto e ho fatto anche un po' d'atletica, a dire il vero. Però le motivazioni erano diverse e so quelle motivazioni che ti fanno correre veramente. C'è la motivazione della fresca insalatina. Esatto. ci sono a volte delle motivazioni che ti fanno correre veramente tanto. Dici, quando stai a fare esercizi, perché l'atletica, ragazzi, non è solo correre, cioè è test atletici veramente probanti, cioè, e ti domandi, ma ne vale la pena? Perché a un certo punto dici, ne vale la pena, quando ancora sei a metà della strada per sapere se raggiungerai l'obiettivo, e a quel punto dici, nessun obiettivo vale tanta fatica. E allora, vabbè, comunque Carmine dice che lui fa 4 km al giorno di camminata, spesso cacciando i Pokémon, ma non vale, mi spiace. Carmine, sei un zozzone, mi dispiace. No, Carmine, non ce la potremmo fare, mi dispiace. E comunque il padre di Carmine è presidente dell'associazione vodistica. Io so anche che ha fatto il Cammino di Santiago, quindi. Ha fatto di corsa? Non lo so. Non vale. Non credo. Non credo. Vale. Ma Santiago del Cile? Santiago di Compostela. Che non è Santiago del Cile. Ci spieghi. è quel cammino spirituale che si fa partendo da non so dove, Madrid, Barcellona, non lo so, non bene lo so. Così parte da qualche parte della Spagna e si fa un tratto a piedi molto sostanzioso che dura giorni e si dorme in conventi. È un cammino lungo dove il principio è la spiritualità, ma io so che sono nate, vabbè, non mi fate di cose perché insomma, però so che c'è anche una nostra collaboratrice che è andata a fare, perché dice no, perché sai, è una spiritualità, la spiritualità che praticamente non dice fare gestacci, vabbè, ma tanto non lo potete vedere, ma la spiritualità è sempre un concetto soggettivo, no? Perché giusto, sotto le tende, quando la tenda si muove, dice oh, vedi lo Spirito Santo che muove e la tenda. Comunque il padre di Carmine l'ha fatto da laico e ci ha messo circa un mese, perché era laico, quindi non stato spirituale, questa spiritualità a volte ti entra da posti che neanche lo sai, guarda, cioè. Vabbè, lasciamo perdere, su, non siamo così, anche perché noi abbiamo detto che un giorno lo faremo, un'altra comunque, vita ovviamente. Carmine dice, ha ragione Simone, nascono anche coppie clandestine durante il cammino, però non ci, ci racconta Carmine, non ci raccontare niente, perché tu ricordati che sei come Narnia, c'hai gli scheletri nell'armadio. Ma noi comunque c'hai gli scheletri nell'armadio, ma cioè, la vacanza secondo me una volta lo interroghiamo, perché è pieno di risorse, c'è un sacco di storie da raccontare, quindi prima ma veniamo poi a bomba sul nostro argomento, ma veniamo a bomba su L'arte di correre, che è questo libro che è stato scritto nell'autunno, tra l'estate e l'autunno del 2006, il cui Murakami descrive il rapporto tra corsa e scrittura e, diciamo così, e vede da un lato la corsa che compensa la vita la vita dello scrittore che è prettamente sedentaria, e dall'altro ne condivide e ne rafforza alcuni elementi di cui magari Patrizia ci può parlare meglio. Vai. Aspetta, prima di dire questo io chiedo a Simone, ma te immagini sto libro, che dupalle io, ma già queste tre righe che ha letto Michela mi hanno creato una noia infinita dentro. Noia di questo che descrive. Tantissime persone mi hanno parlato benissimo di questo libro. No, è vero, è un libro però molto conosciuto. Quelli che non l'hanno letto. Sì. È un libro molto conosciuto nel però mondo dei runner, insomma. È un libro molto semplice, si legge molto, molto velocemente. E c'è è scritto a caratteri cubitali, cioè quattro parole a pagina. Beh, insomma, così è più facile. Si fa questa similitudine, insomma, tra la scrittura, l'arte dello scrivere e la corsa. In realtà io trovo simili soltanto alcuni punti, insomma, tra la corsa e la e certo, che se la fotografi mentre che parla già è in difficoltà, più gli aumenti il però sicuramente è il senso del ritmo che c'è sia nella corsa che nello scrivere, e ricordiamo chi è che ha più senso del ritmo? Beh, le persone di colore ce l'hanno sicuramente la concentrazione, sicuramente, e anche questa capacità di isolarsi per focalizzare l'obiettivo, quindi anche qui sicuramente ci sono diverse analogie. E poi comunque la corsa, per quanto mi riguarda, è dà la possibilità di ti fa capire che in realtà ci sono molte possibilità per migliorarsi e per avere comunque la forza di superare le difficoltà e i momenti di crisi. Cioè comunque lo spirito del runner è quello, non si molla e fino alla fine si va avanti, sapendo che non c'è mai un momento. Sai che mi ricorda sta cosa, non so se voi ricordate, non mi ricordo quale Olimpiade, forse non l'ultima ma quella ancora precedente, che la maratona la vinse un giapponese, che già fu la cosa di per sé, insomma, fu un evento straordinario, perché era sto giapponese, che i giapponesi non hanno mai vinto, insomma, magari di lunghe distanze, ma la cosa fantastica era che lui incarnava secondo me lo spirito del runner e del runner giapponese, perché i giapponesi tu lo sai, no? Sacrificio, morte e autodevastazione, cioè laddove io, sì. Cioè lui, questo giapponese praticamente era arrivato oltre secondo me il suo limite, Infatti stava correndo in un modo, cioè non sapevi se ride o piagne, perché era una cosa bruttissima da vedere, cioè con delle smorfie tipo si stava cagando sotto mentre che correva. O... succedono anche queste cose. No, ma una cosa, guarda, cioè, che stava morendo, perché si vedeva che stava morendo, però lui ha portato a termine la corsa, poi penso che non se n'è più parlato, ma probabilmente è morto, è sparito. Sì. Però devo dire che veramente ha incarnato il senso del sacrificio giapponese, esatto. È proprio una cosa incredibile e veramente lo diciamo per Cristo, cioè noi dobbiamo ammettere oggettivamente, tecnicamente non abbiamo mai visto niente così brutto, cioè nel senso perché era brutto come correva, era brutto l'espressione che faceva, era brutto lui, era, cioè proprio l'insieme di questa cosa mostruosa che allo stesso tempo si elevava cosa spettacolare, perché comunque poi alla fine quello è riuscito ad arrivare alla fine e magari poi veramente è morto il giorno dopo, perché insomma niente, volevo raccontare questa cosa e mi è sempre rimasta impressa, perché adesso vado, è un aspetto molto, vado a cercare le immagini. Ma io direi che a questo punto, Patrizia, possiamo sì, io vorrei concludere con... sì, vorrei concludere con quello che per me è il senso della fatica, che però non è mai vana e sprecata. È scritta praticamente in un libro che mi ha regalato mio fratello, e torno di nuovo a parlare di lui perché gran parte delle mie passioni in realtà mi sono state tramandate da mio fratello. Everyday Heroes, di Costantino Bertucelli, che è un mental coach e che ha riportato in questo libro la storia di alcuni ragazzi che in maniera del tutto spontanea si sono avvicinati, erano persone che conducevano una vita sedentaria, quindi non nascono come atleti, che a un certo punto però della loro vita hanno deciso di avvicinarsi allo sport così casualmente e di fare le loro imprese. E quindi viene raccontato in questo libro appunto la storia di queste persone. Io sono rimasta colpita perché un po' mi rappresenta dalla storia di Gennaro. Vi leggo alcune righe insomma che un po' mi rappresentano. Lui era, diciamo, un ciclista, quindi, però il senso, diciamo, è lo stesso. E scrive: pedalare in salita, fare fatica in salita è un'esperienza particolare, quasi mistica. È tutto molto diverso rispetto alla pianura. Lo sforzo diventa più intimo, la velocità diminuisce e con essa il fruscio del vento si attenua. Il ritmo del cuore si fa invece prepotente, si espande nel torace e sale dal petto fino alla gola. Ti ricorda con forza che lui è lì a battere migliaia di volte al giorno e tu sembri accorgertene solo ora, quando il suo lavoro è a pieno regime. E questo mi piace, mi rappresenta, perché appunto il cuore che batte è il cuore che batte per I'm use my head alongside my heart. So take my flesh, fix my eyes. Dopo aver ascoltato questa bellissima canzone, che è partita immediatamente dopo, insomma, questa lettura, questa citazione di Patrizia, insomma, relativa al libro che ci ha proposto prima, abbiamo ascoltato i Mumford & Sons con I Will Wait. Che insomma è una canzone che dice aspetti l'anguilla, e perché ci devi fare. Ah, lo sapete che oggi ho letto una notizia che su un'autostrada non so dove, tipo, c'è stata un'invasione d'anguille, tipo Sharknado però con le anguille. Cioè una cosa impressionante. Comunque vorrei fare anche io una citazione dal libro che è appena di Costantino Bertuccelli, Everyday Heroes, una frase che mi ha colpito molto ed è Printed in Great Britain by Amazon.co.uk Limited Marston Gate. Vabbè, così. Bravo. No, ma bravo Costantino Bertuccelli. Ma poi perché non l'ha intitolato in italiano? Cioè, eroi tutti i giorni, ad esempio. Cioè, cosa, no, perché fa più figo. Fa più figo. Quindi anche questo Bertuccello è un noto cialtrone che scrive lì. Bertuccelli, non Bertuccello. È Bertuccetta, e vabbè, a posto. Bertuccello. Stiamo insultando noi che noi non conosciamo. Se la stiamo facendo meglio, mai. Che probabilmente mai conosceremo, ma questo, insomma, lui non conoscerà noi, e questa è la cosa che ci salva un po'. Non è detto, perché dato che negli ultimi anni le nostre aziende ci fanno fare corsi con mental coach di tutti i tipi, può darsi che ci capiterà anche lui prima o poi un giorno. Allora, voi state sentendo nel sottofondo qualcosa che chiaramente riporta alla memoria un po' alcuni di noi, un po' la nostra infanzia, alcuni di noi la nostra giovinezza, legata ovviamente alla televisione, dove c'è stato un momento in cui la televisione ha prodotto una serie di rottura, talmente di rottura che la gente diceva: oh, ma che rottura sta cosa? No, in realtà no, veramente un grande capolavoro è stato quello di Twin Peaks, che ha prodotto, insomma, tramite, cioè ovviamente realizzato da David Lynch, anche se poi David Lynch non ha curato proprio tutta quanta l'opera, divisa in due stagioni, in due parti, più addirittura un film che doveva essere una sorta di prequel e doveva raccontarci un po' alcuni aspetti e aggiuntivi riguardo a questa serie, che appunto Twin Peaks. Perché ne parliamo? Ne parliamo perché è stato un bel ricordo. Ogni tanto uno dice: ma ti ricordi Twin Peaks, che figo? Poi la vai a vedere sull'on demand e cominci a vedere le prime tre puntate, non ci capisci un cazzo, dici: vabbè, ma perché devo vedere Twin Peaks? Aspetta. Soprattutto ricordiamo che Twin Peaks è questo capolavoro cinematografico televisivo, però, perché lui ha fatto cinema nel film, film della televisione. Ha dato anche vita ad altre storie in diversi media, tipo ricordiamo. Questo non ce lo ricordiamo, dei videogiochi in particolare, Deadly, esatto, cose, insomma, che poi purtroppo poi David Lynch ha creato, diciamo, una sorta di dei mostri. Ma veniamo al personaggio prima di tornare a Twin Peaks, proprio perché ci abbiamo poi tanti di noi hanno visto la puntata. Quindi non accorpiamo, insomma. Aspetta, accorpiamo, però personaggio ne parliamo dopo, così lanci la canzone. Questa era la mia intuizione da regista cinematografico mondiale. Sì, però fermato, va bene, vai. Allora andiamo direttamente alla puntata 8. Insomma, esatto, alla fine Twin Peaks dice: sai, 25 anni dopo che non ci hai capito un cazzo nei primi nonostante essere un'opera narrativa, perché qualcosa ci hai capito. Twin Peaks, esatto, Twin Peaks tradizionale era un'opera narrativa. A un certo punto, di 25 anni dopo, lui e Frost sono messi insieme, hanno prodotto una terza stagione di Twin Peaks. Mobbe. Dicendo, no, dicendo una cosa chiarissima nella presentazione dell'opera: abbiamo alzato l'asticella facendo, dato che questa è la mia ultima opera, ha detto David Lynch, perché poi menano anche. Lui muore, bestemmia. Esatto, ha detto: io qui faccio proprio quello che cazzo mi pare a me. Che a livello cinematografico, abbiamo viste diverse opere così come questa nuova stagione di Twin Peaks. A livello divisivo, penso sia veramente un unicum che non si ripeterà più. Perché? Perché non si capisce niente fino all'ottava puntata, dove abbiamo assistito a praticamente l'ora, quella definita da tantissimi giornalisti, da tantissime persone, l'ora migliore della storia della televisione negli ultimi 50 anni. Io però su questo, allora, mi permetto di dissentire, non perché in realtà non sia vero, perché potenzialmente lo può anche essere, è che a me mi fa specie che la gente, per far vedere che è intelligente, e qui bisogna... Aspetta, per far vedere che è intelligente, subito si sputtano dicendo capolavoro, cosa che neanche loro hanno capito. Ai mille mio al day one. No, comunque ho letto anche dei commenti negativi. No, negativi, diciamo, ottava puntata di Twin Peaks, tempo percepito 4 settimane. Cioè, tipo che quell'ora lì è come se fosse un mese della vita, insomma. Ma questo è successo pure con Michele una volta quando andavamo alle cascate delle Marmore. Una volta stavamo ascoltando un famoso podcast che facevamo bellissimo, con Michele Salvezza, si chiama Fotogramma 24, che la puntata è durata 3 ore e mezza e noi ci abbiamo messo 3 ore e mezza arrivare alle cascate delle Marmore, entrando in un loop stradale che non... però vedi, insomma, cos'è. Comunque, allora, ma bisogna vivere queste cose, ogni tanto bisogna vivere l'arte così come ma infatti impara l'arte e metti dalla parte, diceva Minoli. Cioè, non la possiamo discutere sempre. E l'ottava puntata della terza stagione di Twin Peaks è quello. Cioè, non possiamo discutere. Guarda, io sono d'accordo su questo. Sono d'accordo e ti dico anche di più. Ti dico che, come ho già detto già altre volte anche parlando con voi, per me quella puntata, ma in generale questa serie, è una serie che va analizzata in maniera stratificata. Cioè, non può essere vista come una cosa che vedi in televisione, perché la vedi in maniera talmente superficiale che non potrai mai comprendere niente. Ecco perché io ti dico, la persona che dice la cosa più grande che sia mai stata fatta, ma tu veramente pensi, cioè l'hai vista 14 volte, l'hai capito veramente fino in fondo? Cioè, no, questo è assolutamente no. Quello che possiamo dire è che è l'opera sperimentale per eccellenza dal punto di vista televisivo, perché ribadisco, nel cinema già si è vista roba del genere. Qual è il film portato a Cannes Fuoco cammina con me? Ah, beh. E poi ci sono pezzi di arte visuale, cioè ci sono pezzi veramente di concettualizzazione, di avanguardia, di sperimentazione, cioè veramente di tutto, dagli anni, dal cinema agli anni 20 fino a... Quando è nata l'avanguardia? Negli anni 20. Quindi non è più avanguardia, è già passata. Ispirazione avanguardistica. Però che vuol dire? Però esatto, cioè nel senso, il neorealismo è il neorealismo, pure se era negli anni 30, 40, 50. Adesso c'è il neo-neorealismo, perché in Italia noi abbiamo inventato solo una corrente cinematografica, il neorealismo. Poi da lì non ci siamo più mossi. E allora ogni tanto dice: beh, questo è il cinema italiano, è neo-neorealismo, così giusto per... Che gli piacerebbe. In realtà abbiamo inventato anche gli western, diciamoci la verità. Però insomma, che so, spaghetti, lo so, ma poi gli americani l'hanno capito. Questo è un problema importante. Comunque, Simone ti spiegherà qualcosa in viaggio. Quindi, me lo spiega Carmine, sì. Perché Carmine è meta. Lui è meta, cioè nel senso, qualsiasi cosa che è meta narrativo, è meta fumettistico, è meta cinematografico, lui legge. Vabbè, ma io direi, non possiamo spoilerare questa puntata, quindi non andiamo perché non c'è niente oltre da spoilerare, cioè nel senso, non sapremmo cosa dire di questa puntata. No, perché poi secondo me ci... Cioè non è che accade tutti un evento, diciamo, è morto un bambino. Scusa Michela, tu adesso... ci spieghi che cosa è successo in quella puntata. Te succede? Spoiler. Fatto anche sul allora questo è l'acqua. No, ma tu sono già alla fine, ricominciato all'inizio. Hai da accendere. Hai da accendere. Hai da accendere. Ma Patrizio e Marco non l'hanno vista, dai. Hai da accendere. Consigliamo vivamente a Patrizio e Marco di vedere a tutti gli ascoltatori, perché non potete mancare a questo appuntamento col destino. Hai da accendere. Hai da accendere. E poi c'è una citazione proprio di Foster. Hai da accendere. di una poesia di Foster, mi sembra. Hai no, da accendere. No, in realtà è un racconto. E veramente questa è l'acqua e questo è il pozzo, hai da accendere. Vabbè, comunque bevine a pieno. Vabbè, comunque ragazzi, è comunque un'esperienza, sì, cioè, che va assolutamente fatta, per quanto e poi soprattutto è un'esperienza. Ma c'è anche da sottolineare la presenza del concerto dei Nine Inch Nails, che fra un po' praticamente cantavano per tutta la puntata. Beh, hanno cantato l'intero, cioè ha fatto un videoclip del sì. Ma io posso dire, poi su una cosa voglio dire, mo al di là di questa ottava puntata, e poi magari facciamo anche qualche accenno su David Lynch. Io proprio su David Lynch voglio dire che io l'ho sempre un po' odiato, perché avendo frequentato moltissimo l'ambiente del cinema indipendente, tutti i ragazzetti che uscivano fuori dalla scuola di cinema c'erano sto problema, che tutti volevano essere o Tarantino o David Lynch. Quindi avevano tutti i cazzo dei cortometraggi, erano tutti David Lynch. Che poi si capiva un cazzo, perché chiaramente David Lynch ce n'è uno, cioè di Picasso ce n'è uno, di Caravaggio ce n'è uno, di Leonardo da Vinci ce n'è uno, di Tarantino ce n'è uno. E di Tarantino, vabbè, Tarantino è un discorso un po', poi potremmo pure parlare, però comunque si può, di Tarantino ce n'è uno. E questo la gente non lo capisce, cioè nel senso, esprimi te stesso piuttosto che. Quindi alla fine ero arrivato a un punto in cui, come sentivo parlare di David Lynch, me vomitavo praticamente. In realtà, poi pensando al fatto che questa è l'ultima opera, e probabilmente lo sarà, perché è abbastanza coerente come soggetto, e penso che perdiamo qualcosa da questo punto di sì, vista. Sì, infatti, per quello poi dopo vorrei fare qualche preambolo. Però prima ascoltiamo una canzone di Cristina Donà, che inaspettatamente, che no, accoppiamo, però così andiamo avanti pure con le canzoni, okay, ce le portiamo via tutte. Hai ragione. Che inaspettatamente è ispirata da un film di che David noi citiamo spesso, sì, anche. Sì, che è Una storia vera, che è uno dei film più belli di, che, cioè, diciamo così, più semplici, possiamo dire, però da vedere, più godibili di David Lynch, molto molto bello. Bra. E ascoltiamo Miracoli. Ciao. Per guardarsi negli occhi e spiegare un errore, per un gesto che forse sarà l'unico che potremo ricordare. Io credo nei miracoli che la mente può fare, milioni di chilometri senza doversi spostare, per creare una storia che prima non c'era, ed una nuova invenzione, quella che salverà l'umanità intera. Forse non sai che la primavera arriverà a prenderti domani sera. Metti un vestito per l'occasione, preparati, c'è la rivoluzione. Credi nei miracoli che la musica sola può fare, e canti le canzoni che ti han fatto sognare, e ti danno la forza di combattere ancora. Per ogni nuova battaglia c'è una nota che ti canta in gola. Forse non sai che la primavera arriverà a prenderti domani sera. Metti un vestito per l'occasione, preparati, c'è la rivoluzione. Comunque è vero una cosa, che questo è un film al quale io e Michela ci teniamo moltissimo, appunto, una storia vera, anche detto una storia vera. A Story, sì. No, anche detto, questo sarebbe il titolo originale, un film di cui abbiamo già parlato, abbiamo fatto già diverse citazioni, è comunque una storia poetica dove David Lynch in realtà non è l'autore del film, ma ne è il regista, e ciò nonostante, quindi una figura tecnica, quella del regista, in realtà poi la sua mano si vede in maniera abbastanza sensibile, sebbene non è un film come Velluto Blu o visionario come Dune o tutti gli altri film. Allora Carmine ci dice che lui, vabbè, salutiamo Gledia che c'ha una paura matta dei Twin Peaks e non si può neanche parlare perché c'è Bob perché Bob. C'è la loggia nera, e lui ci dice che lui voleva essere Robert Rodriguez, quindi facciamo un po' noi due calcoli e sti cazzi, cioè nel senso, no, mi è interessato, ma io volevo approfondire l'argomento che, cercando notizie su di lui, su questo personaggio che alla fine purtroppo, come hai detto tu, si infatti può purtroppo amare, odiare, non è che ci sono mezze misure sulla sua carriera, ho scoperto che, a parte le cose che sappiamo tutti, il fatto che comunque sceglie sempre delle muse particolari come la Rossellini, come la stessa attrice che ha interpretato, no, Laura Palmer, cioè l'attore fetiche, quello là è sempre lui, sì. Ma la cosa che mi ha incuriosito di più è che il primo cortometraggio che ha fatto David Lynch nel 1966 si intitolava Six Figures Getting Sick, ovvero praticamente erano sei persone girate con che si sentono male e vomitano. Questo è il primo cortometraggio. Ma ragazzi, cioè, non era. Cioè, c'è gente che ha fatto anche di peggio, cioè, da Romero a, cioè, chi esce fuori dalle scuole di cinema queste cose le fa, cioè è normale che sia così, fa parte della sperimentazione, anche della costruzione di un proprio linguaggio cinematografico. Per esempio Marco Gualdi, se fosse uscito dalla scuola di cinema e gli avessero dato soldi per fare, che ne so, un cortometraggio di 8 minuti, che cosa avresti fatto? Non lo so, io sicuramente ci avrei messo tante tette e tanti culi, quindi quelli... no, non necessariamente, no, non porno. Non è necessario far vedere tutto, l'importante è far vedere il giusto, come esatto, dice. No. E quindi poi da lì avrei costruito una trama giusta che desse un po' di risalto al detto di cui e basta, cioè sperimentalismo. Bello, bello veramente. E ha rinunciato a Star Wars per girare Dune. Ma chi? David Lynch, Star Wars, no. Ha rinunciato alla regia di Star Wars. Ha fatto bene, tra l'altro Dune. Va bene anche per noi, perché se ci si capiva un cazzo. No, no. Tra l'altro Dune, che ovviamente si vede la mano di David Lynch, ricordiamo, prodotto da De Laurentiis, che se ne è pentito per anni di averlo prodotto. In realtà si è pentito David Lynch, perché ultimamente si è fatto un gran parlare di un eventuale remake di Dune. E David Lynch stesso ha detto che in fondo quel film è un po' una merda. Cioè, quindi, insomma, alla fine, vabbè, sono libri un po' difficili da riportare dal punto di vista. Io non neanche disprezzerò più di tanto di un film. Sì, sì, allora, il film a me piace, però ci sono dei momenti linciani che dasse le botte su Zabbadazza. Sì, e poi vabbè, leggo anche che è un uomo di poche parole, come abbiamo visto, però sì, però è simpatico, cioè anche il fatto che lui si è messo in gioco nella terza stagione, appare lui come il detective dell'FBI, è un po' sordo, un po' sciroccato, diciamo così. Ma io penso che questa cosa però lui l'abbia già fatta, no? Non so, sicuro, sì, credo, no? Di sì, credo l'ha fatta in altri film. E poi vabbè, abbiamo il suo compagno storico che è Angelo Badalamenti, che praticamente è un maniaco della musica, che sì, però riesce comunque a catturare, diciamo così, le immagini anche con il suono. Se tu pensi alla sigla di sì, il suono del vento, il fruscio, è veramente sì. Sì, è veramente un accompagnamento particolare. Beh, d'altronde la maggior parte di coloro che costruiscono colonne sonore per la televisione e il cinema sono sia musicisti che sound design, ingegneri del suono, gente che fa molta ricerca, molta sperimentazione, quindi Poi ci chiediamo tutti, ma perché se, vabbè, Bob è morto, quindi vabbè, purtroppo l'attore che faceva Bob è morto, è ok. È anche curioso come lui l'ha scelto, perché era tipo un tecnico del suono, comunque un tipo che lavorava lì, ha detto, raccontiamo, lui era uno scenografo che per posizionare alcuni oggetti di scena, passando davanti a uno specchio, lui, cioè perché poi pensa il caso, proprio l'incrocio delle cose, sì. David Lynch si è trovato proprio a guardare in quel momento in cui lui è passato davanti allo specchio, ha visto la faccia di Bob nello specchio, che è una cosa che poi abbiamo rivisto su Twin Peaks, sì. E lui ha detto, cioè, fermi tutti, questo è Bob, cioè è una cosa, è lui preso, ce lo siamo preso, portato, e Bob è rimasto per sempre Bob e non ha fatto nient'altro nella sua vita. Certo, c'ha avuto una vita rovinata, perché poi quando andava in giro, Bob è maniaco, però comunque purtroppo non è potuto essere presente nella terza stagione perché non c'è più l'attore che interpretava morte, succede quando ti prende l'attacco di morte, si è ammalato di morte. Ma la cosa che non abbiamo capito è perché il nano non è stato richiamato. Abbiamo capito, ma non ce ne frega manco e ha rosicato una cifra. Questo l'abbiamo anche detto. Penso che Lynch non lo avesse molto in simpatia, e da quello che so io, però non voglio entrare nel merito perché poi dopo ci prendono per razzisti, insomma, in realtà, insomma, pare che questi problemi ci siano stati anche in Blues Brothers e in tanti altri film dove c'erano dei nani, dove, insomma, no, però in altri film, insomma, dove, come ci dice anche Bon Richard, per esempio nella versione originale del Mago di Oz, insomma, succederanno sempre grossi casi. Era il nano perché qua stiamo degenerando, dobbiamo dirlo, Judy Garland era importunato dal nano che interpretava, molestata, ma tutti chiamiamo dalla gente piccola, perché già facevano delle grandi orge in quel set, e lei poverina era devastata perché era pieno, c'erano tutti questi nani praticamente che la vabbè, insomma, possiamo andare avanti. Comunque, vabbè. Cosa che ha raccontato anche nella biografia. A te, per esempio, Patrizia, David Lynch piace? David Lynch non lo conosco in maniera approfondita. Non posso esprimere i giudizi. Quindi rimandi a settembre. Sì, vabbè. Sì. Lo rimandiamo a settembre, come rimandiamo a settembre anche l'ascolto dei suoi delle sue varie opere musicali, perché ha fatto delle opere musicali molto strambe che noi dobbiamo ancora ascoltare, che penso ci vorrà un fegato tanto. Allora, io direi di andare di nuovo ad ascoltare una canzone. Questa volta ci ascoltiamo una bella canzone di Nirvana, Lithium, però la versione è quella dei Polyphonic Spree, perché dobbiamo rallegrarci, perché dobbiamo andare nei discorsi più frivoli, e quindi ascoltiamo i Polyphonic Spree. I'm so happy, 'cause today I found my friends, they're in my head. I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you. We broke our mirrors. Sunday morning is every day for all I care, but I'm not scared. Light my candles in a daze, 'cause I found God. So lonely, that's okay. I shaved my head and I'm not sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard, but I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, but I don't care. I'm so horny, that's okay. Yeah. La versione, questa cover della versione originale è una cagata pazzesca. Mi auguro, grazie da poter. Spiega, spiega. Ma perché un po' così sembra il canto dei ragazzi? Perché è un gruppo composto da circa 80 persone, 80 coristi. Quindi diciamo almeno un 74-75 di troppo. Quando si spostano nei concerti, si spostano tutti 80. Esatto, perché è un gruppo, cioè una polifonica. È un gruppo polifonico. Dai, ci sta, su, dai. Che tra l'altro, è un gruppo polifonico che abbiamo raccontato in mono in una delle puntate di mono, quindi trovate, quindi andate a cercare, dedicate ai Polyphonic Free. Esatto, infatti, andate, non sopportate una canzone, figuriamoci un'intera puntata dedicata a questa. No, è interessante. Comunque io voglio dire una cosa, anche se è stato già detto in chat da una persona che ci stava ascoltando, e questa cosa la voglio dire, la nuova stagione del dottor Who, parliamo il dottor Who, diciamo subito, oggi hanno svelato alla BBC e ci hanno detto chi sarà il tredicesimo dottore, che si chiama Jodie Whittaker, e che sì, è una donna, quindi dopo 60 anni di storia il dottore per la prima volta è una donna. Divisi di genere, una donna, ma andiamo a vedere che cosa ha fatto questa attrice. Film che è dal 2006 a oggi, sono tutto sommando film dimenticabili. Qui sono poi Trono di Spade. Sì, ma no, diciamolo velocemente, perché tanto Trono di Spade non interessa ma a nessuno. Ma parleremo poi, secondo me, del dottor Who più approfonditamente, sì, perché sì, questa è una notizia importante. No, c'era giusto una curiosità simpatica, perché ha fatto film, diciamo, trascurabilissimi, tipo Paris Bounty, Santrinians 2, The Kid, Two Minions, sì, diverse serie Black TV, Mirror anche, tra cui The Shooting of Thomas Ardnall, Tales of the Dumbervilles, This Life Plus 10, Dalziel and Pasco, belle serie veramente. Però la curiosità è che sapete come si intitola la serie in cui lei ha fatto un episodio, perché era lì, faceva la povera passante, credo. Come si chiamava la stagione, anzi la serie nella quale lei ha esordito come attrice in TV? No, adesso dice Doctors. Come? No. Doctors? Ah, ok. Il destino. In realtà, no, perché è un'attrice abbastanza famosa nelle serie BBC, e c'è stata anche su Broadchurch, su Black Mirror, insomma. Il problema è capire un personaggio che è stato maschio per 60 anni. Ed è vero che, come sappiamo, per gli appassionati di Dottor Who, sai che il dottore quando muore si rigenera, ogni volta si rigenera in una figura diversa. Può rigenerarsi anche in una donna, allora perché non l'ha mai fatto prima? E soprattutto una donna, secondo te, può reggere la figura del dottor Who? No, già non c'è riuscito Capaldi, dici, figurate. Dipende molto, ecco, sentiamo che ne prendiamo visti dai sceneggiatori, perché comunque questo è molto importante. Sì, allora infatti io ricordiamo che nelle ultime due stagioni il maestro, che è il nemico acerrimo del dottor Who, è donna. Quindi dice, prima o poi bravissimo. Chicken War, esatto. No, non sappiamo che fine ha fatto il maestro, siamo un po' indietro, quindi non sappiamo se il maestro nel frattempo si è rigenerato, tanto che anche il maestro già questa facoltà, giusto? Sì, è sempre un signore del tempo. Torna uomo, trombano e si sposano e finisce la serie. Ma guarda, dopo 60 anni ci può più restare. Vabbè, io mi auguro che gli sceneggiatori si diano una regolata e che ritornino ai vecchi fasti. A me piacerebbe invece che Moffat e tutti gli scrittori delle ultime due stagioni del dottor chiedessero scusa a Peter Capaldi, perché veramente, insomma, un attore di grosso spessore, che l'hanno proprio spaccato in due per fare una merda. Io capisco che, insomma, gli hanno fatto interpretare forse delle peggiori stagioni, non sono un esperto del dottor, però delle peggiori stagioni. Anche però pure questi sceneggiatori non ci hanno creduto, gli hanno detto vabbè, proviamo noi a raddrizzare la situazione. Ma no, perché poi in realtà l'hanno fatto morire, quindi, cioè, non è che potevano farlo raddrizzare, ormai ma ho fatto deciso moia Moffat con tutti i figli sei, i figli di Moffat stronzo fino alla fine. Sì, ma adesso c'è più Moffat, sì. No, adesso dice che si cambia lo showrunner, cambia un po' tutto. Grazie a Dio. Allora, lei mi ha fatto anche una pausa, dottor U, 5-6 anni, 10 anni di pausa, insomma, non gli avrebbero fatto. Sì, perché comunque alla fine è tanto che adesso ha ripreso. Troppo di fila. E comunque è un'opera che, vabbè, loro ci guardano male perché non la conoscono, è un'opera che consigliamo. Soprattutto cioè, nella nuova riedizione, quindi soprattutto negli episodi dal 2008 in cui, oggi in cui c'è il bravissimo David Tennant, che, sì, per, noi che per noi rimane il dottore d'eccellenza, David Tennant. Io sono rimasta al dottor House, quindi mi seguo dottor House che ha fatto una brutta fine sì. Bene, invece il trono di spade Beh, vi annunciamo che potrebbe essere, perché per esempio Raccuglia mi è sembrato proprio positivo, che potrebbe tornare. Amore, Raccuglia, a me mi fate arrabbiare, tu Raccuglia, Marco, quello e quell'altro. Sono quattro mesi che vi sto di quando che facciamo Morte del Trono di Spade. Ma forse mi ha rovinato pure l'annuncio, diciamoci la verità. Però no. Non torneremo come tutte le puntate, però potrebbe succedere che saltuariamente faremo degli assunti in Morte di Trono di Spade. Siete dei maschilisti di merda, ma scusate se ci sono i bambini, però sono dieci anni che pensate queste cose. Non è assolutamente vera questa cosa. Poi certo, in realtà non ti abbiamo incluso nel casting, però non è per questione di maschilismo, assolutamente, quindi stai tranquilla. Sei contemplata. Ma non sei contemplata proprio nella gestione delle risorse. Non c'è nessuna gestione. Allora tu l'hai proposto. Sono due mesi che abbiamo detto, se Alex non lo fa, non lo facciamo. Invece Alex ha detto, ma quasi facciamolo. E a questo punto lo facciamo. Quindi è maschilismo totale. E ricordatevi che nelle puntate di Morti di Trono di Spade ci sarà ovviamente la famosa rubrica La morte stronza la morte più stronza della puntata, perché sapete che sul Trono di Spade la gente muore. Vabbè, raccoglieremo perché non faremo una perché così fa una bella più condensata, una bella condensazione, quindi faremo i nostri sondaggi, 7-8 morti stronzi. E quindi insieme. Patrizia, ti devi vedere il Trono di Spade. Bene. Ti devi iniziare a questa religione che è il Trono di Spade. Sarà la mia missione, sì. Diciamo, non ti fare ingannare dal fatto che è fantasy, perché il fantasy è solo una scusa. No, e viene definito low fantasy, ossia praticamente un fantasy basso, accettabile, nel senso, anche se poi alla fine comunque escono fuori i White Walker, escono fuori i draghi, insomma, bene o male. Però diciamo che la parte preponderante è tutta sull'aspetto, come posso dire, politico, esatto, gli intrighi medievali, insomma, le guerre, le cose, quelle si scopa e si muore. Ma se c'è la storia d'amore, io cederò ma quale storia d'amore? storie d'amore forzate, e soprattutto gli istinti primordiali che escono fuori, cioè, quindi tu certe volte ti ritrovi che quando muore qualcuno dici arrivi ad odiare talmente tanto alcune persone che quando muoiono male, perché non muoiono mai bene, sei contento che sono morti in quel modo, perché muoiono male e lì poi continua a farlo morire male, insomma, vabbè, però poi muoiono anche male. Ci si affeziona tantissimo ai personaggi. No, meglio che non ti affezioni ai personaggi quando muore, cioè, se ti affezioni, diciamo, ma che ti affezioni, perché dicevo quasi questo personaggio mi sta simpatico, ma affeziono, sta tranquilla che muore. Diciamo che in qualche modo simpatizzi molto spesso anche per i cattivi, diciamo così, che diventi un po'. Questo mi farebbe molto bene. Sì, e non dico altro. Sì, ti aiuta molto a sfogare gli istinti, come appunto ha detto, primordiali che tutti noi abbiamo, e che comunque c'è niente da fare. Devono venire fuori prima o poi. Sì. Comunque, come diceva la puttana che si trovava il nano. La chiama così, sono la tua puttana, dice, questa città puzza di sperma e di cacca, quindi questo è il senso del Trono di Spade. Sì. Sangue, guarda, un'altra sangue e merda adesso. Quindi, va bene. Quindi io direi a questo punto, dato c'è gente che dovrebbe andare a mangiare comunque, vabbè. Sorvoliamo. Hai ragione. Tipo noi, per esempio, tipo a mangiare, ma anche quindi prima di saluti finali, io direi, prima del brano, diciamo che questa è l'ultima puntata di Everything, e forse una delle ultime puntate, l'una delle ultime live che faremo prima della pausa appunto di agosto. Poi come sapete Runtime va in pausa con tutte quante le sue trasmissioni, come alcune hanno già fatto. La prossima settimana ci saranno altri due o tre live, come appunto l'Occhio del Beholder, poi ci sarà Videoludica, torneremo insomma probabilmente anche con Sun Radio, con Alex, e appunto come abbiamo detto Morti di Trono e Spade. Quindi ci saranno alcune occasioni ancora dove fino ad agosto insomma ci ascolteremo, però è tempo di vacanza. E quest'anno lo dobbiamo dire, è successa una cosa, una tragedia, una cosa che probabilmente non doveva succedere, cioè no, doveva succedere, prima o poi doveva succedere, però quando succede c'è quel trauma, no? quella frattura che un po' dentro di te dici vabbè, ma così vai via senza dire niente, cose ho contagiato domani via, non scherzare, no, queste cose così. E Marco Guardi se ne va in vacanza da solo, una cosa drammatica. Siete rotto il cazzo. E questa cosa avrà poi delle ripercussioni chiaramente nel futuro, perché, insomma... A parte che c'è Carmine che non si riesce ancora a spiegare perché non vieni con noi, sta cosa proprio non l'accetta, non viene con noi perché non lo sapeva. Vengono da noi perché c'è Carmine, poi soprattutto perché... non dovevo dirlo, mannaggia miseria, magari fa finta che non l'ho detto. A parte dove te mettevamo, infatti è terribile questa cosa. Non sono venuto per permettere a Carmine di portare i suoi figli, figlio, allora che c'era posto, eh. Guardi, più argomenti e più peggiori la situazione. Vabbè, oh, raga, che ve devo dire? Quindi dove vai? Dove vai in vacanza? Non so, non si sa ancora. Però non si sa di sicuro. Sappiamo che è nella zona della Puglia, nella zona di Gallipoli, ma di preciso esattamente dove non si sa. Ma quella è la lotteria, è come la rigenerazione del dottore, non sai mai cosa succede. Io perché no. Tu vorresti, ma magari no. Vorresti andare in un posto, ma ti mettono quello vicino. Vabbè, dai, basta. Invece noi ce ne andiamo nella foresta nera, sì. Che attenzione, perché potrei fare una citazione cinematografica quando la Solanella dice questo confonde una foresta me la fregna, però non era paio di mutande, no, perché lui aveva visto tramite la, questa sera senza mutande, cioè ho visto tipo una foresta, ma quale foresta? E vabbè, mi hai ricordato, ma non è così perché ci abbiamo i bambini a seguito, quindi okay, noi andiamo nella foresta nera, sia praticamente il posto più spettacolare, fiabesco della Germania, laddove praticamente penso molte delle storie fantasy più tradizionali diciamo hanno preso vita, ma anche gli stessi castelli Disney. Esatto, appunto dal punto di vista stilistico, estetico, cioè nel senso tutto quello che noi vediamo oggi nell'immaginario del fiabesco, insomma nei libri, nei disegni, nelle illustrazioni, la maggior parte insomma vengono da quella regione, e come noi potevamo ovviamente sfuggirsi, insieme al nostro buon Carmine Puccio Console ce ne andiamo lì in Germania con la macchina pra, e ci andiamo a guardare l'albero scolpito con le tette di fuori, che insomma è una cosa che Simone abbraccerà sicuramente. Io abbraccerò assolutamente, io dovrò farmi una foto abbracciato all'albero con le tette di fuori, vogliamo vedere tutti ovviamente. Ma voi dove invece andate? Voi, in vacanza? I Ciccariellos dove vanno? I Ciccariellos ripetono l'esperienza dell'anno scorso. Vabbè, ma sempre le stesse cose. Lo so, però ci è piaciuta tantissimo, quindi torneremo lì. Abbiamo apportato solo qualche modifica all'itinerario perché ci sarà anche la montagna. Quindi visiteremo il parco del Pindu, le meteore, dove ci sono tutti i monasteri ortodossi, e poi ritorneremo alle Fcala, dove sperimenteremo forse kitesurf. Sì, sicuro, kitesurf è da sperimentare. Perché voi ricordatevi che Ciccariello si è comprato la action camera che sta ancora a Pordenone. Ma arriverà. Lui dice di averla comprata tramite Amazon, ma nessuno ci crede, chiaramente. Secondo me parte della vacanza sarà quella di andare a raggiungere la telecamera ovunque sia nel mondo. Ricordiamo perché poi Ciccariello ha comprato la camera, perché l'altro anno... Patrizia è andata a fare la vela, insomma, il parapendio, esatto, e quelli del parapendio gli hanno dato sta e lei ovviamente teneva in maniera un po' maldestra e l'hanno picchiata. perché diceva questa costa più del paravendio di te stessa messa insieme, sì. E allora lui dice: se lei vuole fare ulteriori sport estremi, almeno è la per sua, per proteggermi come sempre. Esatto. Lo sport estremo non lo uccide, non uccide neanche le strutture che la imbraga e la sistema per fare lo sport. Vuole comprare questa cosa, quindi noi quindi quest'estate, anzi a settembre, vedremo. Poi se fai il get safe, dove te la metti? Sul casco? La metti sulla testa? Eh sì, penso di sì, ma prima facciamola arrivare, poi perché ancora non ci crede nessuno. E poi capiremo come va indossata, va utilizzata. Bene, bene, bene, bene. Ma Carmine punto... ha detto: Marco non ha parole. Non ha parole? No. Allora ragazzi, noi abbiamo due brani, uno io lo levo perché okay. Tanto era pure sostituto un altro brano, quindi okay. Lo leviamo. E a questo punto io ringrazio molto, sperando che sia stata un'esperienza che vi abbia divertito in qualche maniera e che vi abbia stimolato, insomma, alla costruzione di Sputer Rospo. sicuramente. No, mi è piaciuto tantissimo questa esperienza e spero di ripeterla con voi. Con o che sia Sputer Rospo o qualsiasi un'altra cosa. Ma pure Sputer Rospo. Ma Sputer Rospo mi piace tanto. Ci piace. Marco Ciccarini. Niente, io sono stato di poche parole perché sono un po' timido e quindi niente. Ma poche ma buone. Vi saluto a tutti, buona serata. Ringrazio ovviamente il nostro caro amico, socio, compatriota Marco Gualdi. Buone vacanze. Mi raccomando, eh. Mi raccomando, fate buone vacanze. Ricordandovi sempre la nostra pagina Facebook Runtime Radio e soprattutto Everything, andate, mettete mi piace, ma Runtime Music, anche il nostro gruppo dove ci sono tutte quante le trasmissioni musicali di Runtime. Io Simone Pizzi vi saluto. E anche io, Michela De Paola, vi saluto. Buona estate a tutti. E torniamo quindi per il Trono di Spade. E attenzione perché, come ho già detto, se troviamo la linea, quando saremo alla Foresta Nera potremmo anche fare qualcosa di meta radiofonico, tanto perché piace tanto a... vedremo. Cosa ci sarà. E per salutarvi vi facciamo ascoltare questa bellissima canzone, ragazzi, perché veramente io sì, è una canzone molto estiva, c'ho i brividi, un po' melenza, un po' triste, però ricorda molto scenari, diciamo così, caraibici. E ascoltiamo Ben Harper. La faccio partire perché sennò non finisce mai. Vai. Con buona sorti. Buona sorte a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto. Não mudará, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. That's it, there's no way, it's over, good luck. I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change. Tudo que quer me dar. Everything you want é to give me. É too much. Não há paz. Tudo que there's quer no peace. All you want from me is real expectation. Yourself, I want you to get cured. all you want. Everything you want to give me. It's too much. It's heavy. There's no peace. All you want from me isn't real expectation.